Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Questa fetta di terra verrà distrutta. Quindi l'intera faglia di San Andreas potrebbe muoversi. Tutti a terra! È esattamente questo che accadrà. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito una clip tratta da San Andreas, un film catastrofico del 2015 che ipotizza uno tsunami conseguente alla rottura della diga di Hoover e a problemi in questa nota faglia sismica degli Stati Uniti. Quando si vedono questi film catastrofici si dice sempre ma esagerato, ma la realtà è un'altra cosa. Beh, mica tanto. Pensate solo a quello che è appena successo nel grattacielo di Londra, o che cosa è successo in Emilia-Romagna, o che cosa è successo in Abruzzo. Sono tanti gli eventi imprevedibili che possono capitare, e a questi aggiungerei anche gli attacchi informatici. Quando si vedono queste cose si pensa in primo luogo giustamente all'aspetto umano, però non va sottovalutato, anche perché fa parte dell'aspetto umano l'aspetto aziendale e industriale. Ci sono dei disastri, le aziende smettono di funzionare, perdono le loro attrezzature e possono subire dei colpi tali che poi magari non si riprendono più, e anche questo è un aspetto umano, perché le aziende che smettono di funzionare licenziano. Pensate che c'è una ricerca dell'AIBA, l'Associazione Italiana Broker di Assicurazioni, che dice che il 40% delle imprese italiane che in conseguenza di un sinistro rimangono inattive per più di 3 mesi falliscono entro 2 anni dalla ripresa dell'attività. Perché falliscono dopo il disastro nel giro di 2 anni? Perché non riescono a compensare il dissesto finanziario che devono subire quando c'è il disastro. Perché non solo c'è il costo di ricomprare i macchinari, ricostruire la sede e quant'altro, ma soprattutto c'è il costo dell'interruzione dell'attività. Cosa che in un mondo interconnesso come quello nel quale viviamo è particolarmente critica, perché noi abbiamo catene del valore ormai che sono estese in tutto il mondo, i distretti stanno diventando sempre di più globali, per cui io magari fornisco un giapponese e questo giapponese vende i suoi prodotti con dentro i miei negli Stati Uniti o in Australia. Dunque, più sono globali, più sono complesse, più sono delicate. Se io smetto di fornire il mio cliente che sta in Giappone, quello mi sostituisce e poi non lo recupero più. Allora, che cosa si fa? Si fa che bisogna essere consapevoli del fatto che si è più esposti al rischio nel mondo interconnesso, che è anche, come vedremo, un rischio di attacco informatico. La soluzione possono essere i cosiddetti business continuity plan, che sono sistemi organizzativi che consentono all'azienda di far fronte agli eventi imprevedibili senza pregiudicare minimamente la continuità dell'attività aziendale. Di questi temi ne parliamo oggi con due persone di Assiteca, Gabriele Giacoma, buongiorno. Buongiorno. Che è l'amministratore delegato, e Vittorio Veronesi, che è responsabile della parte tecnica di Assiteca. Buongiorno. Buongiorno. Ci collegheremo poi con Filippo Sertorio, che è un imprenditore di Torino, della Procemsa, che ha sperimentato i sistemi di business continuity proprio perché gliele ha richiesti un suo cliente multinazionale e gli ha detto: o tu ti tuteli verso i disastri oppure non mi fornisci più. E poi ci racconterà anche la storia della sua azienda, che produce da Torino a Nichelino integratori, farmaci e alimenti per conto terzi. Iniziamo da Giacoma. Allora, serve la business continuity in un mondo così complesso come quello interconnesso in cui viviamo? La business continuity serve e diventa sempre più importante e essenziale. Io direi che ci sono 3 temi che è importante condividere con i radioascoltatori. Uno, come già anticipato bene da lei, attiene la sopravvivenza, quindi il fatto che un'azienda si strutturi con un sistema integrato di gestione dei rischi che include un business continuity plan, attiene la sopravvivenza. Il mercato è sempre più veloce e quindi la protezione tramite il trasferimento del rischio al mercato assicurativo non è più sufficiente. Bisogna prevenire, perché un sinistro che blocca l'attività aziendale per un periodo di tempo prolungato ha come rischio l'uscita dell'azienda dal mercato, indipendentemente dal fatto che poi l'azienda abbia dei costi rimborsati dalla copertura assicurativa. Il terzo tema è una presa di consapevolezza del fatto che rispetto a altri mercati il tessuto industriale italiano è indietro su questa tematica. È indietro anche di valori rilevanti, circa il 70% delle aziende in meno rispetto ai mercati anglosassoni. Il terzo tema è un tema di competitività. Nel senso che ormai l'esperienza ci insegna e ci dimostra, anche con dati empirici, che le aziende che hanno implementato un sistema di controllo integrato dei rischi che include un business continuity plan, nel medio periodo dimostrano una resilienza e anche una redditività di quasi il 40% superiore rispetto alla media del campione. Questo diventa sempre più importante perché anche le nostre aziende clienti stanno cominciando in maniera più importante a richiedere ai fornitori la presenza di questi piani di continuità che garantiscono loro la fornitura. In poche parole, un piano di continuità non è solo un documento come tante certificazioni o tante cose che ci fanno firmare in banca che poi nessuno legge, resta nel cassetto e chissà dov'è. Ma è anche proprio una strategia che prevede dei responsabili. Quindi contiene la descrizione dello staff di coordinamento e supporto, la descrizione delle responsabilità e dell'organizzazione specifica, il centro di emergenza e il suo equipaggiamento, l'attività prevista per affrontare la crisi, e poi le procedure per assicurare la sicurezza delle persone e comunicare con dipendenti, fornitori, clienti e mass media. L'aspetto dei mass media è particolarmente importante perché magari, che ne so, un'azienda alimentare in un supermercato di Chihuahua nel Messico, qualcuno inizia con le siringhe a mettere il veleno negli alimenti di quel supermercato e diventa un disastro che poi fa il giro tutto il globo. Poi il business continuity plan deve contenere i luoghi alternativi per continuare le attività produttive chiave, cioè io devo essere organizzato per dire mi cade la fabbrica perché c'è un terremoto, ma io dove continuo a produrre? E quindi devo dimostrare di essere organizzato così e anche indicare le risorse aziendali dedicate alle crisi. Allora, Veronesi, il tema è che nelle catene produttive globali succede che sono i grandi clienti, le grandi multinazionali che lo chiedono ai fornitori, no? Assolutamente sì, noi stiamo constatando sulla nostra clientela che soprattutto in settori molto particolari, quali quello dell'automotive e quello del chimico-farmaceutico, le grosse multinazionali che dominano il mercato e utilizzano chiaramente una filiera di supply chain molto estesa e differenziata sui territori internazionali, stanno riclassificando le proprie aziende fornitrici sulla base della presenza o meno di piani di continuità, anche perché in questa filiera molto estesa una mancanza di componentistica o di un semilavorato che viene inserito in diciamo nel prodotto finito potrebbe mettere in discussione a sua volta la portanza della resilienza della multinazionale e quindi questa riclassificazione. In Italia, dove abbiamo una forte presenza di filiera produttiva, soprattutto di semilavorati nei settori automotive e chimico-farmaceutico, questa richiesta sta diventando sempre più pressante. Noi abbiamo comunicazioni da alcune nostre aziende del settore, delle principali case automobilistiche, soprattutto tedesche e americane, che hanno mandato inizialmente una semplice comunicazione cognitiva per capire qual era lo stato dell'arte dell'azienda, per arrivare poi proprio alla richiesta di documentazione ufficiale che dimostrasse che l'azienda era dotata del piano di continuità. Da qui le aziende che non erano assolutamente attrezzate, come diceva prima Giacomo, si sono trovati un attimino a dover rincorrere e a proporsi su questo tipo di attività. Noi fortunatamente avevamo già un po' intercettato questa richiesta e siamo stati pronti a fornire ai nostri clienti questo tipo di documento, e da qui appunto diciamo il fatto che le aziende poi che si sono dotate di questi strumenti hanno incominciato anche a valutare il fatto che se a loro veniva richiesto e c'era questa riclassificazione dei fornitori, stanno utilizzando questo strumento anche come punto di distinzione commerciale per andare ad acquisire nuovi mercati. In pratica, se uno ha il business continuity plan, è più facile candidarsi come fornitore delle grandi multinazionali. Senta Giacomo, un'ultima cosa: nell'ambito di questa filosofia, che è quella vostra di broker assicurativo, che quindi non è più solo quello che ti cerca l'assicurazione che costa di meno, ma quello che dà una consulenza che riduce il rischio, avete anche aperto l'attività nella sicurezza informatica, che è la stessa logica, no? Assolutamente sì. La gestione del rischio integrata è un'attività su cui noi siamo molto concentrati, e la componente tecnologica diventa sempre più rilevante negli assessment dei rischi e quindi di tutte le attività di mitigazione che devono essere messe in piedi dalle aziende. Insomma, in buona sostanza c'è il rischio che non solo ci sia un terremoto, ma anche che un pirata informatico ti fa saltare l'attività dell'azienda per 3 o 4 settimane e tu sei molto esposto, perché perdi la continuità del tuo business grazie agli attacchi informatici. Al di là dei classici ormai famosi fenomeni di phishing, abbiamo anche casi concreti di inserimento nei sistemi di controllo degli impianti di produzione che hanno creato dei danni rilevanti all'azienda. Anche benissimo. Dobbiamo interromperci per la pubblicità e gli avvisi sul traffico e le varie ed eventuali. Restate con noi. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fabbrica 2.4. Che succede? Gli impulsi hanno di nuovo dei picchi altissimi. Dici sul serio? Sì. È in arrivo una forte scossa. Magnitudo 7.1! Sbrigati, esci da lì! Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4. Tra l'altro questa è una delle ultime puntate della stagione, e spero che continuerete a seguirci anche l'anno prossimo, e vorrei dire un grazie alle centinaia di migliaia di ascoltatori che ci hanno seguito con affetto, con molte mail, con molto interesse per questi primi 2 anni. Torniamo a noi. Vi ho fatto ancora sentire il film Sant'Andreas sul disastro ipotetico ma realistico che ci sarebbe per un terremoto, perché oggi parliamo dei rischi aziendali. Prima abbiamo avuto 2 consulenti numero uno in questo tema, che erano quelli di Assiteca, e oggi abbiamo un'azienda. Salutiamo il dottor Filippo Sertorio della Procemsa, che oltre che di questo tema ci racconterà anche che cosa loro fanno, visto che sono un'azienda industriale interessante. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Allora, diciamo un attimo che cosa fa la Procemsa, che è un'azienda interessante, perché voi producete per conto terzi, ma non siete di quei produttori che nel silenzio lavorano per offrire alle grandi multinazionali costi più bassi. Avete una componente ideativa, quindi andate dalla multinazionale chimica, farmaceutica, degli integratori alimentari già con un'idea di prodotto che è stato pensato da voi e che poi magari viene venduto con le etichetta di una grande multinazionale, giusto? Sì, diciamo che il nostro core business e il nostro approccio inizialmente è stato quello di essere dei puri contoterzisti, quindi la fabbrica di altri. Nel tempo ci siamo resi conto come in questo paese una PMI come la nostra avrebbe avuto difficoltà a resistere al puro impatto, al solo costo della manodopera, e quindi negli ultimi anni abbiamo intrapreso un'attività di ricerca e sviluppo e di proposizione di nuovi prodotti ai nostri clienti. Ecco, e i vostri clienti chi sono? I nostri clienti sono, diciamo, tre categorie: le multinazionali del farmaco, quindi Pfizer, Bayer, Angelini, Sigma Tau, chi più ne ha più ne metta, le aziende distributrici, quindi che vendono i loro prodotti attraverso i canali della grossa distribuzione, e le aziende che vendono attraverso il canale della farmacia, internet, quindi qualsiasi azienda che vende integratori alimentari, cosmetici o medical device. Si può fare qualche nome o sono coperti da segreto? No, beh, ad esempio nel settore della grossa distribuzione abbiamo in Italia Equilibra, in Germania Eurovital Pharma, nel settore delle farmacie penso a Aboca, penso a Soft, penso a altre aziende che insomma hanno la distribuzione sul canale delle farmacie in Italia. Comunque voi avete due fabbriche che sono vostre. Noi abbiamo due fabbriche di proprietà che diamo, tra virgolette, in prestito per questi prodotti ai nostri clienti. Ecco, e fate 23 milioni di euro di ricavi con una grossa crescita, che nel 2008 infatti voi eravate a quota 13 milioni. Confermo, è un settore che per fortuna ha patito meno la crisi rispetto ad altri, ma che necessita di grossi investimenti tutti gli anni, cosa che ci ha permesso di fare questi numeri in questi 7-8 anni di crisi. E come mai avete deciso di fare un piano di business continuity? Temevate un terremoto a Nichelino? Beh, diciamo che tutto quello che abbiamo visto, abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione è un po' quello che ci ha portato a fare questo piano di business continuity. Il primo contatto è stato proprio un cliente che per firmare il contratto ci ha chiesto se avevamo un piano di business continuity. E da lì abbiamo cominciato a informarci, studiando un pochettino che cos'era, e come credo qualsiasi azienda o imprenditore lungimirante, da un costo potenziale abbiamo fatto un'opportunità, e quindi abbiamo intrapreso il processo di valutazione e di realizzazione di un piano di business continuity. Perfetto. E secondo lei come sarà la sua azienda fra 3 anni o fra 5 anni? Verso quale direzione volete andare? Ma la direzione è sempre più quella europea, per non dire mondiale, quindi l'obiettivo principale della nostra azienda, della nostra famiglia, è quella di crescere, per adesso crescita interna, quindi sviluppo di nuovi prodotti, sempre più ricerca e sviluppo, sempre più qualità, e per essere pronti alle sfide che i nostri clienti ci chiedono. Comunque una cosa che colpisce è che si riesca a fare del contoterzismo in Italia e a Nichelino. Uno pensa che produrre per conto terzi è una cosa che fanno i cinesi o gli indonesiani o i vietnamiti a basso costo, invece in un certo modo si può fare anche qui. Si può fare qui, come ho detto prima, forti investimenti e soprattutto forte commitment alle attività di ricerca e sviluppo, proprio per differenziarci, senza nulla togliere, ai vietnamiti, ai cinesi o ai paesi a basso costo. Ecco, voi avete anche fatto forti investimenti in automazione, i vostri impianti sono completamente automatizzati. I nostri impianti sono semi-automatizzati, ma con sempre maggiore coinvolgimento di quello che oggi va un po' di moda, quindi l'industria 4.0, quindi sensoristica, risparmio energetico, quindi efficienza portata ai massimi livelli, proprio per poter essere sempre più competitivi e ridurre quello che è l'impatto della pura manodopera su questo tipo di produzioni. Ma infatti le ho fatto questa domanda perché una delle cose che ho cercato di far capire durante questo anno di vita della trasmissione è che l'elevata automazione consente di mantenere le fabbriche qui. Uno può mantenere la fabbrica qui perché è molto automatizzato, invece di fare produrre le cose ai cinesi. Quindi, al di là del luogo comune stupido che non si può più di sentire, non si può più di leggere e basta, perché è solo una cosa stupida, la verità è che l'automazione e i robot difendono il lavoro e tante volte lo creano. Sicuramente a noi sta permettendo di tenere in piedi una fabbrica con circa 120 persone in un settore che, come ha detto lei, patisce la concorrenza di paesi dove sicuramente i costi sono decisamente inferiori. E certo. E non basta più solo la qualità. Ecco, io volevo tornare dal dottor Giacoma e parlare un attimo del ruolo del broker di assicurazioni. Voi siete a Siteca, siete il primo broker italiano a capitale italiano e tra l'altro avete una specializzazione nel mondo industriale. Uno pensa al broker come quello che ti vende o ti propone polizze di tante assicurazioni diverse, così ti fa risparmiare. In realtà il valore aggiunto è la consulenza, che è un valore aggiunto in sé e anche un valore aggiunto che aumenta il risparmio, riduce il costo del rischio. In realtà il valore aggiunto sta proprio in un approccio integrato e quindi un'analisi dei rischi e un piano che permette di ritenere quei rischi che vogliono essere gestiti attraverso l'implementazione di un sistema di controllo interno, che siano procedure, che siano piani di continuità, e un trasferimento al mercato assicurativo e quindi l'attività classica di protezione di quello che in maniera scientifica è stato definito come rischio residuo da trasferire. Questo ci porta ad avere una metodologia di assistenza che è allargata, che tende ad assistere l'azienda su quella che è tutta la politica di prevenzione del rischio, evitiamo quindi l'insorgere dei rischi. Passiamo poi a un'attività di supporto su quella che è la mitigazione degli impatti dei sinistri nel momento in cui si verificano, e una terza parte classica che è quella di protezione dal rischio per il tramite delle polizze assicurative e quindi trasferimento del rischio residuo. Ecco, una cosa importante in caso di disastri di tipo aziendali è anche che al di là della quantificazione del rischio, della quantificazione della copertura, ci sia un anticipo di denaro. Sì, assolutamente, l'anticipo di denaro è previsto molto volentieri in contratti assicurativi e permette all'azienda di iniziare a fare tutte quelle attività che molte volte poi noi andiamo a programmare nel business continuity per mettere in sicurezza, tra virgolette, quella che è la merce che in quel momento si potrebbe essere salvata, o soprattutto quelli che sono i macchinari che hanno la necessità di essere subito, tra virgolette, protetti, recuperati, proprio per essere pronti a ripartire quanto prima. Si è visto negli eventi catastrofali che hanno colpito l'Emilia, dove questo meccanismo assicurativo è stato molto efficiente. Abbiamo avuto appunto anche articoli di giornale che facevano riferimento al fatto che i gruppi assicurativi avessero dato un'iniezione di denaro a quell'indotto industriale per permettergli di non fermarsi e di continuare a produrre e avere subito un cash flow finanziario utile da reinserire in azienda. Assolutamente, nelle polizze che noi andiamo a costruire attraverso questo meccanismo di analisi che facciamo, è uno dei punti di partenza che sicuramente non si può trascurare nell'attività che un broker deve fare nei confronti dei propri clienti. Bene, la trasmissione volge al termine oggi, e volge al termine perché domani c'è l'ultima imperdibile puntata. Saluto e ringrazio il dottor Filippo Sertorio, arrivederci, anzi a risentirci. A risentirci, grazie a lei. Saluto Gabriele Giacoma. Arrivederci a lei e agli ascoltatori. Saluto Vittorio Veronesi. Arrivederci a tutti. Buon sabato e mi raccomando, domani ore 13:10. Viva le fabbriche, viva l'acciaio, viva i robot!